Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Pochi se ne sono accorti, ma niente, nemmeno un piccolo accenno. Ho aspettato alcuni giorni per vedere le reazioni dei politici, che mi aspettavo fossero di un certo tipo in riferimento a Rosarno. E invece no, neanche un minimo accenno al razzismo e all'intolleranza. No, si è parlato solo di un normale problema di ordine pubblico, o di integrazione, di lavoro nero mal pagato, o tutt'al più si è detto che era colpa della criminalità organizzata, che cavalca il fenomeno per motivi elettorali e di consenso. Caro direttore, mi dica lei cosa non sarebbe stato detto se un quarto di ciò che è successo fosse avvenuto in qualche paese della Bergamasca o del Veronese. Quali iperboli di parole come xenofobia, disprezzo del diverso, eccetera, sarebbero state usate per definire il fatto? Ma si sa, in quelle zone non c'è il nemico politico da sbugiardare e denigrare a fini elettorali. Lì pigliano voti un po' tutti e la paura di perdere consenso sparando nel mucchio è alta. Meglio evitare certi toni, vero? Marzio, Milano. Caro Marzio, forse viviamo in due paesi diversi. Perché a proposito dei fatti di Rosarno, ho sentito in più occasioni proprio parlare di pericoli di razzismo e di rischi di sostenere l'intolleranza. Non credo che esista un pregiudizio antimeridionale. Avremmo sentito le stesse cose se i fatti di Rosarno fossero avvenuti a Treviso o a Alessandria. Il problema è che le condizioni che si sono create in quella città, anche per effetto dei mancanti interventi delle pubbliche autorità, non si sono create in altre regioni. Vede, caro Marzio, secondo me il vero problema è che in Italia si è sempre fatta una politica dell'immigrazione più per rispondere ai problemi che per evitare che questi problemi si creino. Da una parte con le sanatorie, dall'altra con la silenziosa tolleranza, si è cercato di rimediare alla mancanza di politiche attive e preventive. L'Italia è ormai un paese che ha bisogno vitale degli immigrati. Per la politica, Lega compresa, sarebbe ora di prenderne atto e di rispondere con progetti costruttivi e concreti alle esigenze di crescita del paese. In questi giorni si parla spesso di razzismo. Io penso che la forma e l'espressione massima di tale concetto sia rappresentata da coloro che dicono «Vengano pure gli extracomunitari a fare i lavori umili e sporchi che noi italiani non vogliamo più fare». Ma che? Siamo principi? Razza eletta che non ha più il dovere di sporcarsi le mani? Possibile che noi non raccogliamo più i mandarini o i pomodori? Troppa fatica. E allora venite, umili servitori, a servire il padrone bianco che se ne sta in cassa integrazione pagato dallo Stato e quindi da noi. E se la pensassimo un po' diversamente? Perché non diciamo agli italiani «Trovati un lavoro, magari sottopagato, come raccogliere i mandarini e lo Stato, con una vera cassa integrazione, ti integra il salario». E perché non diciamo invece agli stranieri «Venite, lavoriamo insieme senza ghettizzarvi e senza considerarvi schiavi». Possibile che le nostre donne, da una vita regine del focolare abituate al lavoro domestico, oggi si rifiutino di assistere un anziano, un ammalato o dei bambini? Siamo tutti americani dell'Alabama con le tate negre? Possiamo pure, in un clima di falsità, offenderci del termine negro. Ma di certo non ci offendiamo quando la consideriamo razza inferiore dedita a compiti da noi rifiutati. Diciamo nero al posto di negro, operatore ecologico invece di spazzino, venditore invece di piazzista, agente di polizia locale invece di vigile, assistente di volo invece di cameriera di bordo, collaboratrice familiare invece di cameriera, domestica o servetta. Tutto questo darsi un tono rappresenta una vita che non è reale e crea quindi aspettative diverse. Nascondere con l'evoluzione della parola la falsa socialità, il falso rispetto, la falsa considerazione della funzione, genera vergogna e giustificazione del proprio lavoro umile, sino al rifiuto. Alberto. Tremonti dice che si farà la riforma del fisco entro il 2013 e che questa riforma si farà non in termini di speculazione elettorale o di avventurismo demenziale, ma in termini di vero riformismo. A parte il fatto che le dichiarazioni di Tremonti suonano come una tirata di orecchie a Berlusconi per le promesse di alcuni giorni fa, durate 48 ore, in tema di riforma fiscale e delle due aliquote di tassazione, ma questi sono affari loro. Io credo che il momento per abbassare le tasse sia oggi, anzi ieri, mettendo per prima cosa subito mano al dimezzamento del carico burocratico, vale a dire personale della pubblica amministrazione e sperperi anche nei ministeri. perché da qui al 2013 o l'Italia stramazzerà a terra come un mulo sfinito, oppure scoppierà una sommossa popolare del mondo del lavoro. Tremonti vuole scommettere? Carmelo. Sono giunto ad una acuta conclusione. Per ottenere una credibile riduzione delle imposte serve che la gente si arrabbi. Siccome i dipendenti vivono con la mentalità del netto a fine mese, chiedo che tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e non, percepiscano lo stipendio lordo. Abbagliati dalla cifra tonda, presto i contribuenti si renderanno conto di quanto siano maledettamente alte le percentuali di imposizione fiscale nel nostro paese. Poi faranno i conti anche con l'azione coercitiva dello Stato, che se ritardi un giorno ti frusta, ovvero ti ritassa. Inoltre sono contro tutti gli anticipi possibili immaginabili. L'anticipo dell'IVA, l'anticipo dell'IRPEF, l'anticipo dell'INPS, eccetera. Caro Stato, se hai bisogno di soldi, trovali da un'altra parte. Cari amministratori, se non siete capaci di applicare una fiscalità dinamica, ma soprattutto adattiva, toglietevi di mezzo e fate venire altri amministratori. E via andare fino a che qualcuno fa davvero qualcosa. Sono contro anche alla ritenuta d'acconto, perché se fatturo 100 più IVA, invece di ricevere 120 me ne danno 100, ma devo comunque versare anche l'IVA, che mi porta il lordo a 80. Loro dicono, ma guarda che a giugno facciamo il conguaglio e te li ridiamo. Sì, ma io la spesa la faccio tutte le settimane e mangio tutti i giorni. Oppure mi devo criogenizzare insieme alla mia famiglia fino a giugno. Non mi importa di quali siano le imposte medie degli altri paesi. Io vivo in Italia, mica in Francia o in Inghilterra. Lavoriamo su di noi e poi guardiamo gli altri. Sempre questa scusa. Sì, ma in Germania, in Francia, in Inghilterra. A me viene anche un altro dubbio. Chi ce l'ha fatta oggi, cioè chi è imprenditore con un patrimonio sostanzioso, lo ha fatto grazie all'evasione fiscale. Impossibile solo immaginare un progresso costante e veloce dei propri risparmi pagando tutte le imposte che c'è da pagare. Lo dico perché so fare di conto e, viste le tasse che pago, è praticamente impossibile, per come è strutturata l'imposizione fiscale nel nostro paese, per una famiglia media accantonare risorse per risparmiare o investire. Si vive costantemente al limite. Mi chiedo come possono averlo fatto gli altri. Vorrei ringraziare lo Stato per la sua lungimiranza sociale e per la sua illuminata capacità di adattamento al contemporaneo contributivo. Francesco, Siena. Gentile direttore, mi permetto di scriverle e manifestarle tutto il mio stupore per come sia passato in sordina un comma inserito in finanziaria che prevede per talune regioni italiane per un anno il blocco di ogni azione esecutiva nei loro confronti. A parte le solite disquisizioni di come si possa pretendere da parte dei cittadini il rispetto della cosa pubblica, delle leggi che regolano la vita di un paese civile, quando lo Stato per mezzo del governo dispone per legge la possibilità di non adempiere ai propri obblighi contrattuali, mi chiedo se ci si sia posti il problema di come le aziende potranno preservare la continuità aziendale, visto che sono tenute giustamente a pagare quotidianamente imposte, tasse, fornitori, dipendenti e rimborsare le banche delle anticipazioni concessegli. Ci si rende conto che le aziende potrebbero avere problemi nell'adempiere i propri obblighi verso i terzi? Questo comma della finanziaria prevede che per quest'anno il blocco produrrà a titolo risarcitorio degli interessi per ritardato pagamento pari all'1%. Ma gli onorevoli sono a conoscenza che oggi il sistema bancario applica tassi per le relative anticipazioni finanziarie che sono dalle 4 alle 6 volte superiori a tali indennizzi? Gianluca. Qualche giorno fa in TV un finanziere ha spiegato per filo e per segno la nuova tecnica molto efficace che impiegano per individuare le auto in transito verso l'estero da fermare e controllare per contrastare l'esportazione di valuta o preziosi. Così i furbi sono avvisati e quindi sapranno come non farsi beccare. Il giorno successivo un giornalista ha spiegato per filo e per segno come la polizia indaga nel caso di rapine seriali e quali sono le caratteristiche che prendono in esame, i raffronti che fanno e quindi come scattano le trappole. Ladri avvisati, non fate questi sbagli. Tempo fa, quando dopo mesi di auto bruciate finalmente la polizia arrestò il piromane, un giornalista non ha resistito e ha spiegato anche qui per filo e per segno come mai, al momento del rogo, il piromane era sempre lontano dal posto. E lo ha fatto proprio vedere bene. Così, se qualcun altro voleva favorire e incendiare, avrebbe saputo come fare. È come per gli autovelox. che debbono essere segnalati, ben visibili, in modo che i soliti furbi non vengano mai pescati e possano andare a 200, tanto se non basta, hanno anche il radarino anti-autovelox a bordo. Io trovo queste veramente una presa in giro. Mi fanno andare fuori di testa. Paolo, Roma. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.